Sono senza pensieri. Sì, senza pensieri. La verità, ho provato a fare canzoni, ma dopo il primo verso tutti già si rompevano i coglioni. I commenti ritivi dementi, testi profondi, testi buoni, testine di cazzo con bustine di cocco, rompi baroni, come quando ha inculato il Mila il Boca. Mi consente, non è così che si giuoca. E ho pensato a Mosconi, sto per discussioni, ho tagliato corto, ho dato le dimissioni percuotendomi sul corpo. Mi sono recato al molo, ho finto in ammollo il morto per sentire il tipo a riporto, tirare almeno un porco. Ho imparato il tiro sporco, ne ho detti così tanti che sono diventato un orto, creando giù tutti i santi, ritrovandomi con torto. Con palle al posto degli arti, sono finito da fissarti e farmi vestiti morti, finché non ho finito i porchi al fiato. E così ho ricominciato con lo stile ben grifato. Sono diventato doc, fingendomi laureato in scienza dell'apprendistato. E sono stato rivalutato, si fa così per questo stato. Bisogna fare i furbi e nascondere il reato, tanto io non sono stato. È infermità mentale. Al massimo una settimana in gabbia, poi al massimo in vacanza sabbia si va al mare. Cos'è che ti fa, restare ad ascoltare? E chi è? Sai perché? Potresti stare male. Le perché? Qui non c'è, alcun senso e logiche. Vedi te, pensa che, non voglio pensare. Oh yeah! Governo nuovo, eterno inferno. Sei buono? Sei proprio inverno. Hai lavoro? Vantaggio all'interno. Stai nel coro? Sei un politico, punto critico. Sei critico, sei antipatico. Sei simpatico, sarei atletico. Sei rachitico, resti pestatico. Dato di fatto, ho avuto un contatto. Mi ha presto al contratto, ma presto pestato, ho trovato distratto. Era a comporre liriche col Commodore acceso. Prendo il mio CD-ROM e mi ritrovo appeso. Mi hanno preso per un ROM, per questo mi hanno preso. Impronte digitali, genitali, gli occhiali e detto peso. Che cazzo stai dicendo? Quasi detto mi hanno steso. Manganello sul cervello, miracoloso e resti illeso. La gente ha visto tutto, dappertutto è lutto, perché caricato in modo brutto. Ma dopo il G8 il motto è se lotto in capo. In un cappio così ditemi a scoppio, perché non trovo più il mio occhio. Sono uno spauracchio, gracchio come un granchio. Cacchio sono cacchio, parlo e macchio. Cago spacchio, pago d'acchio. Sono sazchio, dico schio, perché non poschio. Piavitarchio, di parlarchio. Col finacchio, Pinocchio. È uno strazio, monfo spazio. Ora finisco e poi mi cazzio. Cos'è che ti fa, restare ad ascoltare? E chi è? Sai perché? Potresti stare male. Le perché? Qui non c'è, alcun senso e logiche. Vedi te, pensa che, non voglio pensare. E così resterò occhi aperti senza vedere, a guardare senza capire dove mai andrò a finire. Perché c'è in me aria nuova, questo è. Sei solo te che mi distrai e non penso a niente più. Lavoro zero sclero, mi impegnerò nel clero. Farò nuove crociate, sparo solo cazzate. Sono storno alla normalità, torno. Due ore al giorno dormo, tre ore pop e porno. Ricontorno pop e svengo, io mi taglio, non sto fermo. Mi contengo, un abbaglio, sbaglio schermo. Vita in travaglio, per uno scherno e un taglio. Mangio aglio sotto un maglio. Sono così confuso, mi domando cosa uso. Divino fuso, spam abuso. Ho il cervello all'ollo fuso. E un uccello così grande faccio invidia a Belzebù. Del rap sono il Zizou, perché porto fantasia. L'importo è da cardiopatia. Mi divento un'agonia se vedo in voi troppa apatia. Mando tutti quanti in fiera, il tempo in china. Fai freestyle in china? Si dice China? Niente fai, la mangio maina. Cos'è che ti fa, restare ad ascoltare? E chi è? Sai perché? Potresti stare male. Le perché? Qui non c'è, alcun senso e logiche. Vedi te, pensa che, non voglio pensare. Oh yeah! Ezixi di Jericho, dammi il beat. 2010, speriamo entro il 2013. Intanto sono senza pensieri, son senza pensieri, senza pensieri.